tempo si prolungherà, capito? Però se lui è in grado di farla, mi dà qualche garanzia, nel senso che la macchina, insomma, gliela sto dando, ma ritorna, insomma, buona, camminante, che funzioni bene, e a me non mi interessa, cioè io la posso dare anche a lui. Il problema di dove sono adesso è che è ferma in officina, però ci sono determinati furgoni prima di aggiustare la mia, deve aggiustare prima del suo lavoro, nel senso che lui lavora con i furgoni, appena finisce questi 7-8 furgoni che ha, mette in ballo la mia, capito? Ho capito, ma magari non c'è niente, magari c'è qualche manicotto rotto, qualche cosa ne so, qualche fesseria, magari non funziona bene per quello, magari il motore non ha niente. Ma parli del mio? Capito, però se magari c'è qualche anomalia, Davide, non è che sta zingando a continuare a pista a pista, Davide zingava a Baralutti, con Sigini, fa la distributore, lo lava, lo ispeziona, e alla fine lo sa perché ne ha fatto più di uno, capito? E tutte quelle che ci sono sotto le ha fatte tutte lui, quindi sia rover che non è il motore BMW. Vabbè, sto proponi la cosa che ti dica, poi se vuole lo faccio entrare anche in un'officina a lavorare, se vuole lavorare. Sì, infatti lui, allora l'altra volta, non so cosa è successo, l'hanno chiamato a Sassari, a un'officina, praticamente ci ha lavorato da cosa, quello che c'è vicino a Città Mercato, che facevano le pompe di gasolio, eccetera, eccetera, c'è stato un paio d'anni lì. Però poi la paga non era buona, era te devi assare 4 busti a Sassari, perché la mattina e poi a mezzogiorno la una scende a mangiare, poi risalire, poi riscendere, mi ha detto io già non ne vai la grandina, nonostante magari da Burri stendi di Burri vai da vai l'impresa e l'impresa non se ne va di gol. Ha detto che se c'è un problema bisogna pensare e vedere cosa è, cosa non è, no andare. C'è quello, metti il manicotto, come la batteria, lui non gli piace lavorare così a Garlona, compreso. Lui gli piace fare il lavoro, che è fatto bene, che accelera e funziona bene la macchina, non che funziona a colpi. Ho capito, però io voglio una risposta, diciamo subito, una materia che mi posso anche organizzare, nel senso che se lui la vuole fare io... do disdetta a quella lì, perché magari che ne so, hanno mezz'ora di tempo, prendono e fanno, capito? E invece se dicono di non toccarla, non la toccano e non c'è problema. Il problema è però scendersela lì, perché continuare a farla camminare magari fa più danno che altro. Ho capito, vabbè, una volta che te la controlla, che te la perizia, che magari ti dice guarda, ci vuole il motore, magari vedi un po' cosa ti prende il tipo di per il lavoro, e poi magari valuti e magari senti a Davide, ti do un numero, vedi un po' cosa ti dice lui, quanto si può spendere, cosa non si può spendere, se ne vale tipo la pena, nel senso che cioè ne vale sempre la pena, però devi valutare che tipo magari di ricambi ci vogliono, magari ci vuole una fesseria, come magari ci vuole un motore, però magari ce l'ha e quindi sa anche fare il lavoro, però magari se te lo stanno facendo gli altri, cioè metto solo lui, io metto solo quello là, ci tanto hanno la testatura, lì la questione è in quanto tempo te la fanno, capito? No, allora facciamo una cosa, guarda, adesso se Gavino fa la cortesia, così parlo col diretto interessato, perché così a fare portavoce via male. Gavino ti dà il mio numero di telefono, tu lo dai a Davide e poi Davide se mi chiama adesso e ne parliamo noi adesso, dai. Io ho capito, se no gli dico di chiederti l'amicizia su Facebook. Oppure se non parlo io il numero di Davide, non ve ne è problemi, bagisco. Tanto gliel'ho già accennato, come già ce l'ho un motore, mi ha detto, ce l'ho uguale a quello della macchina sua, di TD4, con la turbina e la pompa del gasolio. tradizionale, se non so se c'è in garage, penso che sia in garage però, perché non emette mai di roba buona fuori, se ce la mette sempre in garage, dove c'è il trattore, dove c'è il banchetto, e quando piove si fa lavoro in garage. Vabbè, dai, mandami il numero e lo chiamo se, e ci parlo adesso prima che magari, cioè, io non so neanche se l'hanno iniziato o meno, ma non penso perché erano in ferie. E allora via, c'è carta e penna. Aspetta, daglielo nella radiolina. Sì, dammelo, aspetta però, non riesco a trovare una cazzo. Che affaro oggi il tuo franchi franchi. Cazzo, c'è il gatto fuori, me ne mangio di luce e dito su tuo fatto. C'è un gatto Garvi, un leone bai. Chi su, chi sei il leone che è fuggito dal circo? La serietà. Te va a sigla che era un mito, non mi risponde. Il leone lo chiama di giocare cappellone. Deve essere che l'ha addormentato, non mi risponde. E allora mio, si è sdraiato e ci pensa più giù, figuri più. Vabbè, adesso vuol dire il mio numero, già ce l'avrei impostato a chiamare più tardi, buh. E nel caso già glielo dico io che lui dice a me. Anda bene, anda bene. Va bene. Dove cavolo è che abbiamo fatto? Aspetta. Oh, non so cos'è merendare. E cos'è merendare, Gabri? Mi mangia di frutta, non hai. Ti mangi anche frutta. Se no, in merendare devi fare anche cosa lì da bere, sta piccante, devi essere trasparente. No, Ica, guai. Da che mai mi ha giubito il simbolo della birra? Ma tutto quanto è tuo amato. Ehi, ci posso credere. Perché, boh, magari la birra di inverno non è tanto uno stabilisi. Non sta piccando. No, ma io birra neanche ne bevo. Ho voluto bere una birretta stamattina, ma... Io vi rendo manco di vico, ma tutto tanto ho combussolato. E quindi tocca da prima acqua a vita. Ti ha tutto quanto combussolato, ti ha. Uiuia. No, io in birra, se cioè, meglio comprarsene, me l'ho fatto prendere la barra. Non mi ha fatto prendere quelle Icnusa piccoline a tipo bicchiere. Icnusa piccoline a tipo bicchiere? Del tipo... Non so se ce n'è quante la raffina o quante la Coca-Cola piccola. Sono bottigliette quelle piccole mignonne, la... Cioè uno se devi guardare la bella, sono molto grassi e trovi che sono italiana, gli aspetta delle piumare. Ah ok, ho capito. Sì, un cavocci a rito. Siete piglioni impugnati, io dovevo fare una cosa. Una gasata praticamente, eh? Tipo quelle birrette da botteghino. Io ho capito, tipo i peperoncini. Infatti sono molto a rendere quelle lì le bottigliette. Ho capito. Io ne prendo la sorta da Spano Visite e quando la finisco ci porto la cassetta vuota e mi sono la nuova. E cosa ti è successo? Perché sei tutto... c'è un po' di rumore? No, perché deve essere che c'era qualcuno nella radiolina nella frequenza del posto. Ah, ok. Arturo era lì, security, la moglie ha detto grazie, buon rispetto, e chi ti ha detto a lei. Vabbè dai, ci sentiamo più tardi, nel caso lo chiamo più tardi anche, dai. Cocati. Non ho dormito bene ieri notte, non sto dormendo bene in questi giorni. Cosa sei tutto quanto così chiamato? No, il materasso è troppo molle, non riesco a stare bene, dai, non dormo bene. Va bene, anche io mi metto a fare qualcosa qua. Che devo provare una situazione e poi riprendo. Già sono qua in radio, sentiamo dopo. vai. Ehi, andava mia, adesso esce a vedere come la situazione, sempre uguale, là. E niente, comunque mi pare che questa radio quando casi funziona più bene. Cosa ti ha fatto? No, niente, poco fa avevo spento il lineare, poi l'ho riacceso. Le frecce sono sempre uguali, quindi ho provato a calibrarlo, ma è sempre un mattetto. Quindi lo devo lasciare così. Ma c'è l'amplificatore attaccato adesso? Cappa Roger. È buona la radio, è buona. Io no, ma va bene, poi come ho sistemato ieri quella batteria e gli ho messo quella vittina tipo nel tappo in più, funziona bene. Vai che andava a radio, vai. E magari è appena fuori frequenza, ma di poco, mi perché tipo ce l'ho a 27 102, e molte volte quando clicco a parlare sale a 127 ma a 27 e 104. Sì, appena è già, ma non li fa niente, non li va di nulla, da essere così che non li va di più nulla, chissà cosa. No, ma infatti funziona, cioè si vuol dire che funziona bene. Infatti non lo so, metto lì quel tappo dietro, l'ho tolto dall'altra radio. Non sia che magari vedo visibile non di burro di più canto, magari in collado e non voglio, la lascio così, non mi interessa. Già raffredda, più bel raffredda. Lasciala così già, lasciala così momentaneamente, falla andare così quella radio, falla andare, a tutti i dinni. E adesso tipo il calibrato è tutto spento, è tutto come era settato l'altro giorno, il tone è a 2, l'RF Game non è a 10 ma è a 9,5, il mitigain è lo stesso, è a 9,5, la banda è D, mode AM, RF Power l'ho messo, se ti fidi l'ho messo quasi al massimo, è a 40 zinc. Lo squerch è a 5 e la fighine a 1,5. Sì, va bene, va benissimo, la sarà così alla grande, non la tocca già. L'unica cosa è che se metto l'SVR, il wattometer, come ci si chiama, come ti metti i nonghi, se lo metto tipo a 100, le frecce rimangono quasi a terra tutte e due. Ascolta già, ma dietro l'amplificatore cos'ha, il tastino? Sì che ce l'ha, l'ho lasciato a 4-5 watt. Perfetto, boom, passalo così. Cioè il wattmetro rimane a... quando tu attacchi l'amplificatore il wattmetro rimane... non sale? No, è tipo a 10, se lo metto a 100 non sale come sale a 10. Cioè? Allora per l'amplificatore che non è andente? No, che non è andente l'amplificatore sta segnando 90. O 100. No, 90 sta segnando. L'SVR adesso è neanche 0,2 sta coprendo. La freccia è a 55 watt. Allora è funzionante. Sta funzionando il wattmetro. Sì, però è impostato a 10 watt. Però ti stanno 5 watt e mezzo, non sta dando, l'amplificatore non sta andando. Faccia sciudarlo e te ne avvisi subito. Sì, così è spento, così è semmai. Ciao Gigi, buonasera. Ciao Gavi, non ha cambiato niente. Non sta andando con l'amplificatore allora, già. Sì, ma lui l'hanno lasciato, si muove, si sente vedere, si muove la fretta, ne hanno 90. Invece quando è semmai rimane a fatto ci va. Togliene quel vatto, metto, attacca l'antenna all'amplificatore direttamente, già. Attacca l'antenna all'amplificatore. Ah, sì. Qui Gigi, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Stavo facendo un lavoretto qua e Oggi l'ho sentito là e niente, no, era la cosa più semplice, era attaccare e guardare il segnale se cambiava qualcosa, ma la mia non ha cambiato niente. Lì adesso glielo guardo qua, già ha cambiato, già adesso lo attenuo e vedo un pochino come va. E va bene, va bene. Oggi ascolta un attimino una cosa, ma per il Galaxy, per il Saturn Echo, per dare il picco di modulazione in banda laterale, com'era, ti ricordi? Per dargli più watt dagli 100. No, la sensibilità in banda laterale, la sensibilità microfonica, com'era? Cos'era? L'LC non cambia nulla, non ricambia proprio nulla. C'è la bobina variabile di sensibility SSB, adesso provo a fargli quella lì. Aspetta, un'occhiata, ce l'avevo segnato da qualche parte, ma perché adesso io così a cosa non me ne ricordo più niente, lo sa. Se non lo vengono ma metto più. Tutti i dini, noi ci ha ammattanati lo debito. Era per non fare la ricerca, per non seguirmi lo schema, queste cose qua, capito? Se te lo ricordavi tu. Ma poi un'altra cosa che poi avevamo un discorso, ma quello che giustava le radio era morto così? È morto da un vent'anni quello lì, sì. Albino, giusto? No, questo era Giancarlo, Albino è come te e me, non è a livello mio lui. Cosa vuol dire a livello tuo? Che è bravo quanto ne sono bravo io, me. Cosa vuol dire a livello tuo oggi? In pensione? No, non mi hai capito, non è un bravo tecnico, si aggiusta come mi aggiusto io, non è un po' preso. Ah, ok, quindi Vantenni, cioè questo Albino non è un tecnico affermato come quello che c'era di Ghilarza, giusto? Così è. Albino si chiama quello di Borole, tu stai dicendo quello lì? Esatto, quello di Borole, quello è Albino. Invece il tecnico, quello bravo, di dov'era? Era di Terralba, Giancarlo, però è morto già un poco d'anni. Ah, ok. Sì. E Albino non è morto? No, è giovane lui, non è morto, però è stata arrangiata. Ah, ok. Perfetto, allora mi sono sbagliato. È quello di Terralba, quello che è morto. Sì. Era quello bravo, quello che mi avevi detto del 48. Positivo, ascoltami, tu cosa volevi sapere su USB, cosa volevi sapere, su che cosa mi hai chiesto? La sensibilità microfonica, cioè in pratica l'SSB fischiando sale, nel mio sale a 20 watt, però parlando non, cioè va da massimo 6-7 watt. Ho capito. Allora, sul caso la LC delle USB e il VR12. Sì, la LC sì, quello c'è, quello lo so. Parlo della bobina variabile, perché la LC ti dà il picco massimo di modulazione e io in PEP ce l'ho. Però la sensibilità, nel senso, se io parlo, deve salire per esempio a 12-13 watt, poi in PP dal picco massimo, e quello c'è, l'LC c'è. La sensibilità di modulazione, tu te la ricordi qual è? Loro gli fanno altri trucchetti, altre cose, capito? Ma allora in AM e il VR14, in AM la modulazione, sul Garat. Il VR14, quella è la modulazione, che te la fa più bella, più coso, quella è la modulazione. La potenza sarebbe VR13, quello lo sai, in AM stiamo parlando, Sì. E la M, la modulazione della M vale anche per, cioè non vale anche per l'FM, è diversa, è tutto un circuito diverso a quanto ho visto dalla scheda. No, funziona anche l'FM, ti sale anche l'FM. Allora, la mia regolazione Smith, allora su quello lì. Allora, VR3 USB Squerch, VR4 AM Squerch, VR5 registra frequenza FM, per uno truccarlo visto, VR3 potenziometro spostamento via dicendo, per la frequenza in banda laterale, e non truccarlo. VR8 è RFI, pannello regola la bit in trasmissione. VR10 finale via, se non toccarlo mai. VR16 AMC, power, recezione e trasmissione. poi c'è il 14 che è la modulazione, il VR13 la potenza, il VR12 sono la radio della, la, come si chiama, USB, e niente, poi integrato da togliere il TR32, ma non lì nell'altro l'hai tolto, tu non lì, lì ce n'è qualche altro da togliere che non lo so. No, l'ho tolto anche qua io, il non in questa qua, questa non è il Saturn, l'ho tolto anche nel Saturn il TR32, proprio tolto, ho fatto il ponte, ed ha migliorato tantissimo. È positivo. E poi ci sono state altre accorgimenti che fanno loro, capito, ma se cambiano delle resistenze, danno più, arriva più corrente, più cose, tante cose fanno loro, capito? Sì. Capito, devo solo capire come dargli più sensibilità al microfono e basta, perché in PEP, parlando un po' a voce alta, sale a 20 watt, 22 watt, però parlando normale è proprio leggero, quindi devo cercare di fare qualcosa. Poi da quella schedina che c'ha al fianco, su dove c'è il lato dell'accensione, di lì che c'è la potenza minima, l'ho dato da 1 watt in AM fino a capita dai picchi di 15-16 watt, dopo che gli ho tolto quel TR32 da picchi di 16-17 watt in AM, e in FM sale a 12 watt. Sì, ma è così, quello gli dà molto più radio, attenzione, gli dà molto più radio. E infatti è per quello, l'altra volta mi dicevi, caspita, stacchi l'amplificatore ed esce video, perché gli davo troppa poca potenza in ingresso all'amplificatore, gli dava una radio allucinante. È positivo. Poi un altro consiglio per l'altro, si chiama Gianni, quando lui adopera l'amplificatore e coso, il baracchino lavora meglio dai 3 ai 4 watt di portante bianca, se tu ne dai di più esce già male, capito? E lui lavora bene con quei watt lì. Ce l'ha già 4 watt e mezzo, mi sembra che sia, 4 watt e mezzo lui ce l'ha l'amplificatore. Già l'hai fatto quello scambio? E gli accappa le coppie così e semmai. Fai un altro passaggio in standby. Prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova. Ok, attacca l'amplificatore. Ora è attaccato l'amplificatore. Prova, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova, prova, prova. Da 5 l'ho portato a 9 più 30, già funziona l'amplificatore, già. Guarda che c'è quello strumento che sta dando problemi. Sì, infatti adesso mi sta segnando, adesso è salito, ma prima non saliva da lì, prima non si muoveva, è sempre uguale. Sì, lo strumento ha problemi, ti stava dando problemi lo strumento, già quello strumento che ha problemi già. Non lo attaccare lo strumento, a fottitini, già è tarata l'antenna. Sì, infatti questa già è tarata, però non risolve, ma infatti comunque segna sempre come poco fa. Lo so, ma non è che invece era quello strumento che ti stava facendo ricevere male a te, no? Ma tu lo senti a Gigi? Certo che lo sento. Senti a Gigi e non senti a Claudio, un bel strana sta cosa, un bel strana, vai Gigi. È positivo, vabbè. Attenzione, io ho un baracchinetto con 4 watt e boh, senza nulla, proprio normale, non ho una radio compresa, sto uscendo con 4 watt, ho capito, un baracchino normale. Scappa, Gigi, già te ne cervo. Ma infatti anche io ho il 68 che stavo usando prima, che c'è il vasto sui originali, e qualche volta gli attaccavo il lineare, e infatti che c'è un DV 131, e niente, con quello sviluppa di più la 68 34 canali, con i watt originali e l'amplificatorino. Aspetta, se stava parlando sopra Galvino non lo so, perché non capivo a te che c'era, forse Galvino stava parlando sopra di lui. Ascolta Gianni, aspetta, ascolta me Gianni. Sì, grazie. passaggio e tu guardi quanto ti arriva di segnale, quindi adesso parla Gigi e tu guardi il segnale che ti arriva a lui, così proviamo una cosa. Vai Gigi. Vedi un po' che segnale ti arrivo, vedi un po', sono giusto giusto 4 watt pieni pieni, io mi segna il coso mio, eh. Ehi Agappa, allora Luigi mi arriva dove c'è scritto il numero 5 proprio a metà in pieno, segnal 5. Segnale 5, ok, quindi a me Gigi mi sta arrivando S9 da volte fa 95, quindi chissà radio già l'S mettere un pochino, un po' così. Vai Gigi. Aspetta, ma che radio è questa qua già? Che radio sta adoperando? Niente, sto usando un Galaxy Saturn 6 bande. Ecco a parrogero. Allora, la regolazione dello smitter c'ha un trim, ce l'ha per come deve ricevere, avendo un'altra radio giusta tu te lo puoi regolare, capito? E più quando schiaccia la portante la puoi portare quanto vuoi tu al lago, vuol dire che è starato, hai capito? Che sarà starato sicuramente. Sì, sicuramente sì, perché non lo so, l'ho presa dalla Spagna questa radio di seconda mano, mi ha detto che funzionava, che ce l'aveva fermata un po' e niente, se la stava vendendo e l'ho comprata io. E nulla, però rispetto al 68 io ho al Midland, quella là è diversa, adesso è più aperta, diciamo. Sì, nel 68 ci puoi giocare un po' la puoi far spingere un po' di più, volendo anche, però anche loro, il 68 c'è la regolazione, capito? Lì mi sembra che adesso non mi ricordo, VR8 mi sembra che era la... VR1 mi sembra che era la come si chiama? C'è il VR1 che regola lo Smith, sia in AM che in FM, e poi c'è il VR8 che lo regola in trasmissione, quello lì. Sì, il VR1 fa AM, FM, e poi c'è anche quello per la banda laterale, sono sotto VR13 e VR14. Sì, vuole regolato, vuole tarato quello lì con un'altra radio e è portato anche magari, perché poi non ha le stesse prestazioni di un HF, però almeno con un altro baracchino un segnale di 7, portaglielo a 7 anche a lui, mi segui, quindi vuole tarato lì. Ma non c'ha niente quella radio già, quella radio non ha nulla, lasciala stare, falla, era un po' ferma, lasciala stare che già, cioè in trasmissione va benissimo, in trasmissione va bene, lasciala stare. C'è qualcosina in ricezione, però a livello di segnale, a livello di cose, ma va bene, vai riprendi. Ehi Agappa, ma lo sai cos'è? Che se la sta d'accordo li avrei registrate, ma no, non ci riesco perché non me lo fa fare il mio organismo, compreso, no, vedo poco, c'ho il problema alla schiena che i pesi è un casino e quindi mi viene male a fare anche la minima e semplice cosa, se no la veduta si è buttato la via. Ma è un attimo, è un attimino già, è un attimo, non è che vi voglia, è che vuol fatto in base alla tua antenna anche mia. Io se vuoi me lo fai scendere, io te la posso fare questa regolazione, io ci metto un attimo di cavolo con vacco e te lo faccio in base al 6009, io problemi non ne ho per farti questa cosa qua. Però questi cosi sono sempre una sorpresa, perché potrebbe succedere che io tocco un trimmer, piglia, batti un trimmer, dismonti un trimmer, finito, funziona la radio. È un un disastro. Quando sono radio così ferme da parecchio, magari c'ha i trimmer che sono, che chi so, incullati, chi so, che sono usurati, e magari qualche pista andata, e ti succede un disastro, ti succede. Io perché ti sto dicendo lasciala così, lasciala così e lasciala così, perché se poi vai a toccare qualcosa, anche a girare il trimmer, ricordo anche io ho i cacciaviti, quelli di plastica, quelli che non conduttori, ho tutto, però sai che ho tutto per farlo. Però se poi io magari ti tocco il trimmer, una radio funzionante, finché non è funzionante, allora uno prende e dice te la controllo, te la controllo. Però quando una radio è funzionante, quando una radio è funzionante, poi puoi andare a fare, a toccare delle cose, per un segnale, per una cosa, poi ti succede un disastro, ti succede un disastro di chi si vei, perché vai, può partire anche se parte un diodo, un capacimetro, una cosa, ti invade un disastro lieto, vai Gigi. Positivo, e poi lì devi stare attento, ma lo stai regolando che c'è anche la 220 in quella radio, hai capito? Devi quando ti chiude le mani dentro, devi stare attento anche a quello, ma a me già non ci arriva il coso, dai, però sto dicendo, ma a me sì, quel cacciavite normale no, perché sennò fai danno. E solito non si blocca, però a volte si sfascia, ma è capitato di cambiarlo a me, regolando, se non regolava, me l'ha provata qualche radio a controllare, e girava e non regolava nulla. E allora ho dovuto risaltare e mettergliene un altro e regolava, perché succede anche questo, però già sono semplice a cambiare, a cambiare, devi staccare da sotto dopo per arrivare alla piastra su quella macchina, su quella radio lì, mi sembra, non mi ricordo, la giampizza è fatta, smontata e rifatta 50 mila voci di Taranto. Io adesso non mi ricordo se c'era il coso sotto anche da mollare, ma non me lo ricordo più, guarda. Ehi Agì, però filtrante è roba tua, sei consapevole di chi su mi serve? Io ho visto che mi sono messo e me l'ho fatto da solo il mio non riceveva, non trasmetteva, mi ho cambiato i finali, mi ho cambiato tutto, mi ho ripreso la scheda e me l'ho fatto pian piano con un po' d'attenzione, ho scaricato il manuale e me l'ho fatto. Però quando è roba d'altri, finta che una cosa che non funziona, vuol dire provo e magari riesci. A me quello mio me l'hanno regalato come non funzionante, me l'ha regalato un amico e mi ha detto me l'hanno incasinato. E mi era tutto quanto un fatto, da lavoro mi ho portato l'oscilloscopio, mi ho portato l'analizzatore di frequenza e me l'ho tutto quanto allineato, me l'ho fatto. Però era roba mia, ma se io adesso ripiglio questa radio che funziona di bene, non sta funzionando bene, e vado a prendere, a fare qualche, a toccare qualcosa, vado a toccare qualcosa che poi gli faccio, magari succede qualche cosa, mi rompi il cazzo, e poi no, già lasciala così che la radio sta andando bene, a futitini di lusignari, a fregatene dei segnali, io ti ho fatto fare quella prova per capire se stava funzionando l'amplificatore, basta, e per capire quanto era lo smitter. Alla fine, quando ti dicono quanto ti arrivo, e ho il frequenzimetro a varo, basta, finito. A futitini, la radio trasmette, riceve bene, e a futitini usi. Intanto per scambiare quattro chiacchiere va bene così, fregatene. Poi se ti serve potenza c'è l'amplificatore, funziona. Sicuramente regolata a 5 watt quella radio ti dura 100 anni, così. E anche l'amplificatore e anche la valvola. Quindi non sei in una botte di ferro. Sì, la sta usando con il Turner, io gli ho fatto quel Turner, gliel'ho sistemato. E la sta usando col Turner tipo 3B. Ma va bene, sto uscendo benissimo già, no, non ti preoccupare, vai, riprendi. Ma infatti già va bene. Adesso per esempio c'è tipo l'autoparlantino esterno che usavo nel 68, perché mi viene bene a rimanere tipo a parlare col microfono e ascoltare, se non tocca stare giù la faccia di radar, capito? Ti va abbastanza bene, ti va abbastanza bene. Ti ripeto, che magari a freddo non funziona tipo bene, però quando scalda un po' la radio funziona abbastanza bene. E niente, poi bisogna vedere sempre tipo gli altri dove sono, magari sono in un angolo concesso e quindi magari io non ricevo con questo tipo di antenna game system, come si chiama. Game Master lì. E niente, e comunque va bene, perché lì su questo posso fare la prova con un cavo nuovo e vedere se magari funziona ancora meglio. Però ho visto che così funziona bene, sia il 68 che questa, dai, diciamo. Ascolta, ma se Gigi non ti ha detto niente, se ti copia bene Gigi, se non ti sta, se non ti ha detto, perché uno che ti dice se sta facendo male te lo dice. Se uno che non ti ha detto niente vuol dire che la radio sta lavorando bene. Vai Gigi. No, esce bene la radio. Sta facendo bene, sta andando benissimo, capito? No, non c'è niente da dirle per la radio, capito? Sta facendo benissimo, è anche forte come radio. E io ti ascolto bene, capito? Io ti ascolto bene, se poi tu mi ascolti io sto facendo con 4 watt, non c'ho nulla attaccato io, non ne ho attaccato di niente. Sono 4 watt di baracchino che sto uscendo, poi un baracchino normale, no, tipo, non è un 48, ma è pure si vale bande laterali, ma è sempre un baracchino, Ehi, agatta, agatta, no, mia, adesso è spento il lineare. Niente, quindi sto uscendo la potenza normale della radio e basta. L'antenna avevo comprato una Game System, mi pare di chiamo, non mi ricordo bene, comunque quella 5 ottavi in fibra di vetro bianca, la seconda generazione però. Positivo, oh, ma poi riceve bene anche i canarini, se stendi tutto, pure i canarini, cosa vale? I canarini mi dico. Cioè i canarini e i cucurì. Io si intende. Sì, sono sempre belli di guglio. Vabbè, lì posso abbassare appena appena il coso dell'amplificatore, oppure il, come si dice, il mic gain, e magari li senti di meno gli uccellini. Io sto parlando a una distanza di 30 centimetri. No, già va bene, sì, va bene. Poi quel microfono si abbina bene in quella radio lì. Io, no, ci avevo io MB più 4 mi sembra, però un po' modificato su quella radio lì. Talmente 3 mi vanno più mai forse. La prima radio sì, però lì no. Però ci avevo uno lì che gli cambiava la capsula, gli facevi quel ponticello sull'MB più 4 e andava una cannonata da via. Eia. Di queste cose non me ne intendo, non mi Gavino ne sa di più, infatti me li ha sistemati lui i microfoni, ce l'ho un altro cosa, e poi c'ha di siluriggio, ma non me l'ha messo, un po' di luci che vuoi iniziare. L'altro è un MB più 4 della ZG, e quello lì, il primo che mi ha sistemato per arrivare al 48 è una bombetta, Quello stavo dicendo io, quello fa delle modifiche, cambia la capsula, li metti allora mettevamo quelle dei telefoni di casa, vedete che quelle capsule in ceramica, le mettevamo quelle lì ed era spettacolare. Ora se ne c'è pure qualcuno ancora arrivata di queste casa, no? Mi sa che l'avevo fatta a Giulio Dollaro, l'avevo regalata a lui l'ultima che ci ha preso. E c'era anch'io di quelle capsule G, addirittura c'ho capsule quelle di citofoni, di siti di citofono, le cornette di citofoni che sono quelle belle, quelle a piezolitico, che fanno la radio, fanno la radio voci. E gli ho fatto, gli ho sistemato anche un presidente Jackson io a lui, che in pratica punia, era tutta, c'era la scheda di 45 bit, gli ho eliminato quella scheda e gliel'ho riportato originale. Però gliel'ho portato originale, ma come sai, come ben sai, il presidente Jackson, il Lincoln, l'FM, se non li fai la modifica, se non li scaccia viti, in FM escono passi, mentre in AM esce bene. E quello gliel'ho portato originale, fatto lo stesso con i parametri originali, e ciccio. E microfoni lo stesso gliel'ho fatto sempre a titolo di favore. Sempre a titolo di favore, non nell'ambito lavorativo. Attenzione, da specificare. Ma a Gianni quando glielo faccio già se lo merita, dai, è un bravo pizzino. Già è un bravo pizzino. Del resto va bene, già non toccare la radio che andava a futitini, ma futitini, facciamo qua scambiare quattro chiacchiere, va bene. Sì, sì, sì, sì, tu c'hai anche il l'altro MB più 4, che poi sono quelli buoni perché sono la prima serie dell'MB più 4, capito? Sono quelli neri, quelli con la targhetta nera e gialla, quelli sono belli, hanno la capsula. Hanno la capsula a piezo anche quella, perché da quella serie lì alle altre serie le capsule sono dinamiche, quindi cambiano e cambia anche il circuito della scheda. Quelle del prima serie, come quelle che tu, sono capsule a piezo elettrica, cioè funzionano per via di un transistor, funzionano per via di un transistor che c'è nella scheda. Quindi questi microfoni teniti di me. E quello che ti ho fatto per il President Jackson va bene anche per il Saturn Echo, perché ha le stesse intensazioni, quindi te lo puoi prendere, te lo puoi mettere a fianco, gli metti una batteria e ti usi anche quello lì, che dovrebbe risaltare un po' più le tonalità basse, l'MB più 4. Vai Gigi. Positivo, positivo. No, sono microfoni, io poi li ho dati tutti, no? Non mi ricordo a chi li ho dati. Tarme più te ne avevo due, li ho dati, boh, non me ne ammetta, qualcuno li ho dati. Li ho dati tutti, no? Non ne ho più di quei miei. Cioè, a te cosa c'ho? Due M300, come te si chiama, due che devono la batteria, quelli c'erano tanti anni fa, ne ho due di quelli lì, e funzionano tutti e due. Quelli della Intex ce l'ho anche io uno, me l'aveva regalato Franco, l'avevo sistemato e ce l'ho anche io oggi. Allora, quelli già sono bellini da tenere, quelli già sono bellini da tenere. Insomma, tu hai mollato tutto, non ti ne ha fatti più nulla, dai, poi c'è una radiolina e basta, così è. No, già ci sono, già ce le ho le altre radio, ce le ho le altre, capito, però accendo sempre questa, capito, già ce ne ho altre roba, ce le ho, capito, no, ma no, non c'è bisogno di accenderle, capito, e tu, poi lo sai che io che radio, come le operavo io le radio, tu lo sai che io non adopero microfoni MP3, ce li avevo, io adopero il microfono normale e poi l'altra cosa c'è tutta la radio, hai capito? Cioè, ma lo sai che ce l'avevi anche tu, non so se ne hai ancora qualcuna. No, oggi. Adesso pian piano mi faccio il Saturn Echo come quello che ci avevi tu, però lo lascio fuori originale. E infatti da Gianni mi ho fatto vendere un microfono, aveva il microfono originale del Petrus, che è uguale a quello del Saturn Echo, me l'ho fatto vendere. E adesso pian piano mi compro il doppio modulatore, la scheda Echo, dai, mi metto a farmi e me lo faccio colto questo qua. E me lo faccio io, provo a farmelo io, pian piano, quando l'ho aggiustato mi piazzo anche la scheda accolta e tutta quanta quella roba lì. Un pezzo alla volta. E proviamo a vedere, a farcelo da solo, così magari abbiamo qualche soddisfazione, dai. Dai, soddisfazione. Dai, il gusto di avertelo fatto da solo, tanto. Allora, poi il gusto non viene a chi, quando ti mandano la scheda ti mandano tutto quanto lo schema, quindi. E commenti chi te la so piazza indietro. Positivo. Ma poi a te va già bene per la tonalità della voce tua, non c'è neanche di aggiungergli, perché si può cambiare, la tonalità si possono cambiare, capito? Io per la mia c'era un condensatore da 50, molti, poi qualcuno era da 63, qualcuno 100, stamattina per esempio lo metterò a 100, ieri ne ho messo a posto un lavoretto fatto per un amico e l'ho guardata nella scheda e c'era da 50, quello si aggiunge per cambiare la tonalità della voce più grossa, sì. Sì, ma a me vanno bene originali, a me già vanno bene originali, non è che devo, cioè i componenti, poi magari con l'andare del tempo uno dice si può, magari come te che conosci le tonalità di quelle radio lì, di quelle modifiche lì, mi dice vabbè, prova a metterlo da 60 da 60 West, quel condensatore, che magari ti fa la voce un pochino più, diciamo, più mascola, come si dice in gergo, in quel gergo, più mascola, più mascola. Piano piano me lo faccio, piano piano me lo faccio oggi. L'ho sistemato e l'ho... Le altre cose non è che, intanto poi è tutto da tarare, una volta che metti quelle schede ci sono degli aggiustamenti da fare anche nella corrente del BIAS, perché sai benissimo che aggiungendo quella scheda, soprattutto il doppio modulatore, devi fare anche modifiche nello stadio del BIAS. Sì, ma non ne ha bisogno del doppio modulatore e Saturnecco, tranquillo che non aveva, il mio non ne aveva e aveva picchi di quasi di 30, era 3 watt, partiva, portate bene anche a 3 watt, c'aveva picchi di 30 quasi. Senza doppio modulatore, figurati. Sì, senza, non ne aveva quello lì. Avevi solo la scheda colta e il bip. Positivo, sì. Scheda colta e il bip. Il bip non era il suo, ma cosa era il suo originale? No, il suo originale no, era staccato direttamente il suo. Staccato direttamente anche la scheda sua, non c'era attaccata più. Oh, vabbè, l'attacchi, la scheda del suo eco e del suo bip l'attacchi. E metti la scheda nuova, quello sì. E col doppio modulatore, secondo me, perché sono radio che se li tocchi qualcosina e se sai magari un consiglio da uno, consiglio dall'altro, però consigli seri, no da giarlatani o da persone che vogliono fare chissà cosa. Io già le invito, quando mi serve qualche consiglio prendo e mi permetto di turbarti per queste radio qua, che tu sei molto più afferrato di me per quanto riguarda le componentistiche di queste radio, e quindi mi permetto quando posso di disturbarti, ma va bene così, dai, va bene così. Però pian piano abbiamo fatto tutto. Adesso se la bassina giù, la moglie giù, che cosa? Che la 3 schede di moglie. Però non so se il doppio modulatore lo puoi fare inseribile o disinseribile. Adesso devo vedere questa cosa qua, perché a quanto pare se lo fai disinseribile ti può dare dei problemi. Di solito è sempre collegato il doppio, capito? È sempre collegato. È copiato. Magari, ho detto è sempre collegato e non è staccabile il doppio. Esatto. Quindi non è disinseribile il doppio modulatore. Negativo, puoi inserire l'eco, tutte quelle cose lì le puoi fare, capito? Ti ricordi, non so se tu conoscevi prima di Baracchetti, avevo la caramita, io l'attivavo con la caramita, ti ricordi? Non so se l'hai mai visto, i primi che c'erano tanti anni fa, che allora c'erano i controlli, lo spegnevi, lo riaccendevi, riusciva tutto normale, non c'era eco, non c'era bip, non c'era nulla, capito? Sì, avevi la calamità, se non sbaglio ce l'avevi sopra, oggi. Sì, la passavo su, il frontalino sopra e si attivava tutte le modifiche, capito? Cioè dovevi i canali e via dicendo. Sì, già me lo ricordo. E va bene. Infatti ho già iniziato a prendere, a fare qualcosa per... tramite la bobina variabile della MFM ho già iniziato a dargli qualcosina per il microfono originale. Dice, ma ti sento un po' stretto, e vabbè, microfono originale, hai sentito la bobina di Bongoreco, la scheda accolta, il doppio modulatore, vedi, 11. Sì, poi ce n'è spazio lì a mezzo. Allora nel 48, nel 68 è costretto a togliere la scheda delle FM, era costretto a toglierla, se no non ve la rimesso. Però su quello lì no, lì già ce n'è spazio. Sì, già, poi c'è anche da prendere, da rivedere lo stadio d'alimentazione, e c'è qualche lavoro da fare, però poi esce una bella radio, perché con il doppio modulatore c'è anche da rivedere lo stadio d'alimentazione. Sì, diciamo, bisogna di più corrente, capito? Deve aumentargliela un po' di corrente, che la devi dare di più, capito? Ma però nel mio l'avevo cambiato, come si chiama, io l'alimentatore gliel'avevo cambiato, gliel'avevo messo di quello da 50 ampere del switch, quelli lì l'avevo messo dentro. E vai, capita 50 senza correnti era. Sì. Oh, questo alimentatore tira 15 ampere quello interno, 15 ampere. Sì, però assorbe un po' più di corrente e scalda un po' di più. Cosa succede? Che una volta che si rompe, che a volte va a finire che si rompe e non ti accende più, e non conviene più metterli su originale, conviene metterne uno come ho fatto io. Esatto, uno switching anche da 30 a 50 ampere, quelli dei cinesi, e piglieli, metti uno di quelli e va bene, tanto no, non è che diventa anche più leggera la radio, capita. Roba quella che c'è dentro è roba di altri tempi, però se tenuta bene va alla grande. Va bene, io devo fare 10 minuti di pausa un attimino, se ci siete riprendo dopo, Gianni scusa se mi pongo, però Gigi non entra mai, quando entra parliamo di queste cosettine qua, riprendo, dai, datemi 5-10 minuti e riprendo subito, se poi no dovete fare cosa, ci sentiamo alle prossime, ciao Gigi e ciao Gianni, ripeto, 10 minuti e sono di nuovo in radio. Va bene, capirà, 10 minuti ti aspetto perché anche io voglio dire qualcosa, riprendiamo con Gianni, l'abbiamo lasciato a San B, avanti Gianni. Ehi, agappa, allora stavo dicendo, io Gigi c'ho un 48, che dentro è tutto quanto pieno di schede, e funziona, però, cioè secondo me, come hai detto tu, magari l'azionavano con la calamita quella LAN 48 che ho, perché c'è tipo la scheda EcoCorte dentro, c'è tipo una scatoletta grigia, dovrebbe essere il doppio modulatore, cioè l'alimentatore per il doppio modulatore, c'è tre o quattro schede all'interno, infatti l'altoparlante ci aveva tipo dove poggiavano le viti, c'erano degli spessori per non toccare le schede. E niente, una volta stavo parlando con Giulio e gli ha detto che arrivavo forte con quella radio, invece poi l'ho provata un'altra volta, forse magari perché ero in FM, non in AM, non in slogu, e mi hanno detto no, non sto uscendo basso con quella radio, e io dico forse con quella radio che arrivavo a bomba a Sassari, se stanno da attaccarlo. E niente, ce l'ho lì perché praticamente l'avevo presa da Napoli da un ragazzo, avevo pagato una fesseria, poi avevo messo le luci nuove, le due nuove, e niente, gli avevo fatto la radiografia adesiva della mascherina dello squalo e i tappi celesti con la staffa, con il cavo dell'accensione della più o meno originali. E ne ho un grafio desi di radio Alan 4868, la voce 548 e 568, e funzionano bene o male tutti. E magari ce ne sarà qualcuno che avrà registrato qualche film dell'FM o dell'AM, e vanno tutti. E io ho già avuto una vita e io il camion li adopperavo, io il camion parlavo tutta Italia, tutto il mondo parlavo con questi 48 e li avevo tutti modificati. Io ne ho ancora, ne ho neanche due miei figli ho il camion modificati, io adesso ce l'ho anche qua a portata di mano, modificato. No, io ero appassionato di quei 48 all'epoca, in camion erano, però erano tutti pirata perché c'era la calamita, dovevi spegnerlo, perché allora c'era il controllo, la mano più nuda, prima ti firmava pure la finanza e c'era questi controlli, capito? Ma ecco perché, però se lo pigliavi in mano pesava un bel, pesava lo doppio dell'altro normale, capito? Perché dentro era pieno. Ehi, agappa, infatti ne ho uno originale di 48 che c'è da sostituire le lampadine perché non fanno molta luce, è sempre un old Korea, mi pare che sia, 1986, niente, lì mi ero comprato tipo il doppio modulatore, la schedina VIP e la schedina EcoColt, e niente, ho tutti i fogliettini per tipo piazzarlo, però io non li so leggere, e niente, e ce l'ho fermo, ce l'ho parcheggiato, io ho detto io, quando mai, qualche giorno l'hai tuo, se hai detto me lo faccio fare, me lo spedisco e me lo faccio fare direttamente. Anche cioè praticamente sono delle radioline che vanno bene, con poche modifiche, poi fanno per esempio più di un'altra radio, un tutto lì, e poi sono facili da mettere da qualsiasi parte. Ma sai che hanno tornato venduto io all'epoca? Ma lo sai quanto costava un 48 modifiche, come le facevo, come le avevo io? Non lo compravi meno di 500 euro, me. Cioè, se volevo un sacco di soldi a fare le modifiche, me. Un sacco di denaro volia. Costavano dai 500 ai 550 euro, parlo nuovi. E infatti già ci sono in internet che li vendono così. Per esempio, ne ho uno nuovo in scatola che praticamente questo signore l'aveva comprato per metterlo nel camper, l'ha provato, ha messo il filo di accensione più e meno. Da uno su Google ha detto 10-2 domani e non vedo più un camper. Ha detto meno male che la radio ce l'avevo messo la scatola. E me l'ha venuta di nuova l'Alan 48 con la staffa, il cavo d'accensione l'ho comprato io nuovo. Ed è l'ho tracciato la nuova, l'ho provato, funziona. E niente, non so se fare quello o l'altro che ho. Però ce l'ho nuovo. Bisogna vedere se quello è più recente, non è come quello. I pomilli cosa c'è? Sono le cose nere, c'è i pomilli, no? No, è il classico, c'era quello senza le luci e poi avevano fatto quello con le luci nel frontalino che praticamente aveva i bottoni originali, però si facevano le cornicette, uscivano le cornicette appena colorate. Invece l'altro c'è il bottone neri e c'è scritto 48 e c'è anche quello, sempre dentro la scatola, però è di usato. Non qua, come pomelli neri c'è, quello il tipo l'ultimo usciti, quelli nuovi, quello lì c'è. Sì, c'ho la versione nuova e la versione vecchia dentro la scatola. Ne ho due in scatola. Allora, quella versione nuova, che c'è i pomellini, che è tutto, è il color ghiaccio, le cose color ghiaccio escono, le scritte quando accendi. E infatti lì c'è, si può fare una modifica di portarlo a 10 watt. Però devi sbagliare più, devi eliminare oppure ponteggiare. Ha già fatto da poco, ha già fatto una decina di questi baracchini, li ho modificato, ma una decina ne ho fatto. Se a farli con la modifica ci impiego 10 minuti, se più che tempo abbiamo un tappo che a farla. Devo fare un po' di lavoretti veloci allora, in poche parole ti dà picchi di 27 watt quando moduli, a vanno da 4 watt non si muove, 3,5, 4 non si muove, e tu 120 canali, capito? Cioè 120 canali. Se fai quella modifica che stai dicendo tu, sì, io ce l'ho quello lì, ce l'ho con la staffa, tutto quanto per dentro. Infatti la scatola non c'ha i gusci di polistirolo, c'ha il coso di cartone prestampato, mi sa. Quello l'avevo preso da un ragazzo di Alghero che era in continente a Pavia, mi ha dato, si ti vedi, mi ha regalato 70 euro, l'ho pagato, spedito e tutto. Niente, la scatola e tutto, ma adesso ce l'aveva un'estate, l'ha usato un'estate e poi l'ha tolto. E chi se andano un bel, chi se può fare un bel, mi dici, chi se dice un bel sforzo, un bel fatto, dati, facendo le modifichette, capito? Quello non ci vuole spese, mentre chi vive fa farle vive più denaro. l'altro modello, però l'altro modello è più robusto di questo, perché se tu visto l'apri Trento è tutto delle cose, non venuta a Trento, mi è più delle 0-0 non venuta a Trento, sono di queste componenti che vi vuole la rete l'ingrandimento per vederle e non aprire il burro, sono tutte compreso mai. Sì, c'hanno a posto di essere tipo valvoline, transistor, si cose, tutti dei semiconcipsi minori. Sì, infatti è diversa, però sono delle belle radio. Adesso io quando ho occasione che magari me la faccio modificare qualcuno, tanto per quella tipo